tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per le vostre mail, notiziariogiordanobruno@gmail.com. Calendario anticlericale 2021 rivolgesi a info@sicilialibertaria.it. Oggi apriamo con lo scandalo del Canada. Il Canada riscopre la sua vergogna, la fossa comune dei bimbi indigeni. Trovati 215 corpi sotto una scuola cattolica di rieducazione. Le scuse della Chiesa per riconoscere la verità. Il Corriere della Sera del 30 maggio 2021. Una terribile strage di bambini perpetrata dalle suore. La Repubblica del 30 maggio. Pagina 12. La vergogna del Canada. Ecco le fosse comuni dei bimbi indigeni. La scuola per rieducare i nativi. Questa scuola, gestita dalle suore, pare che non avesse nemmeno il riscaldamento. Dal Corriere della Sera del 26 maggio. Dai provita ai mormoni, DDL Zan, ora è scontro sulle 170 audizioni. Tutti i reazionari filoclericali si sono mobilitati contro questa legge. Da Cronaca Vera del 1 giugno, riusciva a manipolare il pensiero e la volontà. Questo malefico prete, di nome Giuseppe Rugolo, agli arresti domiciliari a Enna, ma si era scappato a Ferrara. Avrebbe tentato di coprire le sue malefatte. Continuano le polemiche sul sacerdote sotto accusa. L'odissea di una presunta vittima per riuscire a farsi ascoltare. Uno dei suoi accusatori riferisce le difficoltà incontrate per denunciare gli abusi che avrebbe subito quando era minorenne dal prete malefico. Altri religiosi gli avrebbero consigliato di dimenticare l'accaduto. Secondo i genitori del giovane, il vescovo avrebbe offerto loro del denaro. Il monsignore smentisce, eccetera, eccetera. Dall'Espresso del 22 maggio 2021, pagina 64. Preghiere per gli acquisti, scandalo in Vaticano. Inchiesta Beccio al giro di boa. La rete del cardinale nel crack che ha terremotato il sistema bancario. Il risico dei filoclericali affaristi Mincione e Torzi. Un ampio articolo con foto del povero Papa che si ritrova questa ennesima patata bollente. Foto del cardinal Beccio, un malefico personaggio che va al di là di ogni descrizione. Dall'affare sul Palazzo di Londra, invece di investire i soldi per i poveri, alle speculazioni edilizie al massimo guadagno all'ombra della Chiesa che coinvolgono familiari e amici del prelato, questo malefico personaggio. Abbiamo poi dalla rivista Giallo, che è un settimanale che non ne perdona la Chiesa, 1 giugno 2021 si parla di questo santone che vicino a Chiavari, Genova, aveva fatto una setta religiosa mistica, che come tutte le sette religiose mistiche è una specie di truffa, e aveva provocato indirettamente l'uccisione di questa povera ragazza, di cui ci sono le foto, su Giallo del 1 giugno, pagina 34. Mai fidarsi dei santi e dei santoni. Allora, passiamo poi al settimanale del Rodense, in provincia di Milano. Fate attenzione, i giornali locali dicono bugie. Un vescovo è venuto nel paesotto di Vanzago a denunciare i giornali locali. Dovete stare attenti alla televisione, a internet, ai giornali e soprattutto ai giornali locali, in particolare la pagina di Vanzago è piena di bugie. E qui il giornalista, certo signor Stefano Giudici, si difende accanitamente e si sfoga contro il prete, una specie di Don Camillo Peppone. Dal Quotidiano Nazionale del 28 maggio, celibato e donne prete, la CEI replica a Letta. Le vere priorità sono il lavoro e la famiglia. E quindi c'è la solita polemica sul celibato obbligatorio. Il Papa inasprisce le pene per i preti pedofili e altri religiosi che ne fanno di tutti i colori. Beh, dopo 2000 anni. Però scomunica per chi ordina prete le donne. Ecco, solita misoginia clericale. Abbiamo poi dal Veneto il sexy ricatto al prete maniaco di Rustega, che andava con i ragazzotti e che lo filmavano e lo ricattavano. Insomma, patteggia 2 anni e 4 mesi il giovinotto che lo ricattava. E dalla Stampa del 29 maggio, pagina 20, e si parla del caso Eluana e di tutte le resistenze clericali al suo diritto, del suo caso e degli altri casi, di avere una buona morte. Poi dal Corriere della Sera del 28 maggio, pagina 13, Milano, si parla di questo paesotto di Pomponesco, Mantova, dove c'è una dura polemica fra il sindaco e il parroco, sindaco e don, la lite. Insomma, litigano sempre sindaco e parroco, e il motivo è la facciata della chiesa. Anche la Prealpina, giornale del Varesotto, ha fatto un bel articolone su questo ex collegio cattolico di suore malefiche, Canada, trovati i resti di 215 bambini, insomma tutti ne hanno parlato. Passiamo poi agli anticlericali. Allora, dovete sapere che a Roma c'era questo anticlericale originale, Gianluca Ciardelli, che nel 2019 provocò l'ira della polizia a presidio di Piazza San Pietro tentando di fare un giro in motorino all'interno della piazza. Fu subito arrestato, eccetera. Poi abbiamo sul Quotidiano Nazionale del 2 giugno, sempre quei due preti umbri che si sono sposati, che hanno gettato la tonaca delle ortiche. L'ex parroco si sposa, un mese fa l'addio alla tonaca per amore, città di Castello, pubblicate le nozze. Molto bene. Abbiamo poi, cosa succede il sabato 29 maggio, e su Rai Storia alle 17 è stato mandato il film Il Generale, che questo generale sarebbe Garibaldi. E ci sono vari colloqui contro il Papa, no? Lui voleva, dopo aver liberato l'Italia meridionale dalla tirannia borbonica, irrompere nello stato della Chiesa e liberare i romani dal papato. Ma il generale Cialdini e Cavour gli fecero notare che c'era un'interdittiva dei francesi e quindi purtroppo i rapporti di forza erano quelli che sono e non si poteva fare. Poi le disgrazie clericali da Palermo, una terribile disgrazia ha colpito una catechista a 45 anni morta di cancro, e insomma una roba terribile, e quindi insomma anche qui l'angelo custode, le preghiere non sono servite a nulla. Poi sull'Avvenire del 27 maggio, il parroco, dov'era Dio, stava soffrendo con noi. Sì, questo parroco commenta la tragedia del Mottarone e quindi evidentemente dov'era Dio sta soffrendo, allora sta soffrendo continuamente questo povero Dio, perché le disgrazie avvengono tutti i giorni. Passiamo poi al mio argomento preferito, gli antipapi, che sono 41. Passiamo all'antipapa Costantino II, che era veramente un tipaccio come tutti i papi e gli antipapi, un degenerato. Finì incarcerato e accecato dai papisti regolari. Duri scontri armati fra cattolici, altro che Spirito Santo. Insomma, su Wikipedia, digitando Costantino II, antipapa, trovate tutte le robe che ha combinato. Prete, se lo conosci, lo eviti. Passiamo poi al piccolo dizionario ateo anticlericale, fatto da sottoscritto, pubblicato con le edizioni La Fiaccola di Ragusa. Fasti Vaticano televisivi è una definizione che riassume l'occupazione massiccia dei teleschermi Rai da parte dei papi, specie se in viaggio. Favola di Dio è sostenuta da molti libri ateistici, a partire soprattutto dalla presenza del male nel mondo. cioè Dio sarebbe tutta un'invenzione dei preti per giustificare il male, per, insomma, per giustificare le preghiere, eccetera, eccetera. E per concludere, un detto anticlericale, sempre di Giordano Bruno, che se la prende con la Madonna. La Vergine non può aver partorito, bisogna levare la disputa e le entrate ai frati, perché imbrattano il mondo e sono tutti asini. Bene, con questa frase saluti a tutti alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Barberina c'è la rivoluzione e sotto al lampione mi mise a piscià. Vennero 4 gendarmi vestiti alla borghese, cappella la pirulese mi vollero arrestà. Guardate giovinotti, non pisciate al muro, pisciate nel tamburo delle guardie di città. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. E già che tu ci sei, e già che tu ci, a me le patatine o me le sbucci. Amore, amore, amore, amore, un corno. Se la sera un cenno, la notte un dormo. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. Vittorio Emanuele, o re del regno, la meglio gioventù la vuoi sciupare, se poi soldati fatteli di legno, marmi morino lasciamelo stare. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. Già 3 volte che suona la sirena, siamo senza carbone e senza vino. Anche stasera siamo senza cena, si fa le orze intorno al tavolino. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. Che cosa me ne faccio dei tuoi bacini, se a casa non mi porti da mangiare? Lo senti come piangono i bambini, gridano papà e mamma, abbiamo fame. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. Cia cia uba uba, cia cia uba uba, cia cia uba uba, wa wa wa wa. da Pietro Gori e il suo ideale, abbassò quell'infame borghesia e viva la rivoluzione sociale, abbassò il fascio e viva l'anarchia. Ciao bau ba, ciao bau ba, ciao bau ba, wow wow wow, ciao bau ba, ciao bau ba, ciao bau ba.